Cruciani. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Barisoni, quando vedi queste quattro cifre 1828, porta fuori i coglioni. Non salutare nemmeno, non ci interessa. Via, devi schizzare. 1828, psst, fuori. Chiaro? Ma e c'è Barisoni? Quegli emeriti cialtroni venduti alla Confindustria perché sono pagati da questi mascalzoni hanno cercato di dirmi delle insolenze con questa trasmissione della zanzara della minchia. Parenzo, ti voglio carico! Quell'ibrido, ibrido, ibrido, come un muro. Ibrido vuol dire fatto da tante cose. A questo gioco al massacro io non ci sto. Caro David, eccoci qua, eccoci qua. Io ti mando a fare, dimmi. In una giornata, voglio dire, molto importante, oggi è il 5778, lo ricorderemo nel corso di tutta la diretta, cioè il capodanno ebraico, mamma quindi mia. Vi saluterò anzitempo, come direbbe il professor Fusaro. No, 5778 dalla fondazione, dalla nascita del 2017. Mondo, dalla creazione della Terra. È il 2017. Quindi, per voi è il 2017, per me è il 5778. Ma siccome parli di cifre, sì. leggo un sondaggio sì. qui del quotidiano Il Giorno, il quale sostiene, un sondaggio sulle donne musulmane in Italia, che il 41%, 41% dei padri delle famiglie non vuole che le figlie musulmane, musulmane italiane però o residenti in Italia, non vuole che le figlie vadano a scuola. Beh, alle ragazze islamiche vengono vietati pure i matrimoni misti e il cibo italiano. Sbagliato. A proposito di integrazione. Beh, questo è sbagliato, a ovvio, proposito di integrazione. Questo è sbagliato, evidente. Sgarbi nel pomeriggio, invitato a una trasmissione che si chiama Tagadà, sbrocca contro la panella che non lo fa parlare. Male, fa male Sgarbi. Noi abbiamo i dati della Ghisleri che ci danno al 4,5%, che mi pare una rivoluzione in Sicilia, e voi parlate della Ryanair e dei sondaggi di Piepoli. Meglio che io me ne vada, no, perché ma è una rottura di coglioni, di discussioni senza senso. Però la Ryanair va anche in Sicilia. Ma chi si frega di Ryanair? Fate ridere, no, un programma che non vuol dire niente. Vabbè. Dopo che date dati sbagliati sulla Sicilia, inventando cose che non sono. Se il PD è all'8%, il tema è chi è Renzi? Chi è Renzi? Questa è una bella domanda, però hai dato l'8% al candidato del PD. Hanno dato io l'8%, se smette di urlare magari ci parliamo. Ma prendi che... No, non smetto di urlare, io che non vengo qua sei preso per il culo. Può darsi, io mi auguro che vadano bene anche agli ascoltatori che ci seguono, Sgarbi. Trovo sinceramente tutto ciò abbastanza sopra le righe. Grazie a me, perché quando uno si incazza finalmente aumenti gli ascolti. E lo sa bene Cairo. No, che se uno per quarto d'ora parla di Ryanair, cosa fa Ryanair? Ti prende Ryanair? Fate ridere! Trovo insopportabile essere ignorato da voi per Ryanair. Io sono candidato in Sicilia. Non hai la pubblicità, no? La pubblicità aiuterebbe. Non è nessuno. Non è nessuna pubblicità, uno deve dire la verità. Tremonti, devi dire la verità. Dire chi sono i candidati. Vabbè, non è possibile. Invece di insultare, magari si può dire anche dico, più gentilmente. Secca, sei passata. Sono passata secca, passo come mi pare essendo casa mia, Sgarbi, però anche basta. Candidato in anche Sicilia. Meno. Che cazzo sono quei dati? Mi hai ignorato. Quei dati sono i dati di Piepoli. Candidato in Sicilia. Sì. Sono i dati di Piepoli. E li abbiamo dichiarati. Sono completamente diversi. Ma Mamma mia, com'è incazzato Sgarbone! Mi piace molto la freddezza con la quale l'ottima Tiziana Panella ha governato questo momento drammatico. Vabbè, scusa, teso, se ti invitano a parlare di Sicilia e poi ti fanno parlare della Ryanair, ti incazzi di cosa? La conduttrice sceglie quali domande porre ai propri ospiti, quindi ottima Tiziana che ha governato questo momento di difficoltà. A proposito di Ryanair, diciamo una cosa molto semplice. Io capisco quei 400 passeggeri arrabbiati perché avevano preso il loro biglietto, stavano andando in vacanza a mettere le loro chiappe al sole o chissà dove, quindi sono arrabbiati. Però voglio fare una riflessione a queste 400 persone che sono rimaste a piedi, che sono a terra e sono arrabbiate. Pensate ai migranti. Come si devono sentire invece i migranti che scappano dalle guerre, scappano da luoghi di conflitto e vengono bloccati poi, vengono rimandati o vorrebbero, alcuni italiani vorrebbero rimandarli a casa loro. Ecco, allora mi rivolgo a queste 400 persone, questi 400 ma questi turisti hanno pagato il biglietto, lasciati a terra. Ecco, loro si sono sentiti sicuramente traditi, hanno perso il loro biglietto di aereo e le loro vacanze, devono essere risarciti. Ma rivolgete un pensiero a quelle persone che invece non vanno in vacanza, cosa c'entra? Ma stavano scappando dalla guerra, dalla fame, dalla violenza, dalle prigioni libiche, mamma da Serrai, stanno scappando per la vita e vengono bloccati là e rischiano di morire nel mare. Allora voglio dire a questi 400 turisti che giustamente volevano andare in vacanza oppure a lavorare, gente che deve lavorare, che ne oppure sai? Gente che deve lavorare, allora? La vostra rabbia la capisco, la vostra rabbia è la mia rabbia. Allora? Ma rivolgete uno sguardo, minuto a quelli che non prendono l'aereo, ma prendono i canotti, le carrette del mare per provare a raggiungere la terra promessa. Smettila. Rivolgete ma la vostra rabbia, dai. Un minuto della vostra rabbia, e dovete essere risarciti da Ryanair, e rivolgete un minuto della vostra rabbia a quel desiderio di libertà di quegli uomini che cercano di attraversare quel piccolo braccio di mare per trovare la felicità. Vabbè. Pensate un momento anche a loro. Salvini, portano la tubercolosi. Grazie. Ecco la tubercolosi. No, lui porta. Senti come sto io. Ogni volta che produce la parola Salvini tossisco. Fermo, ora l'ho Salvini. Capito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a proposito di malattie e di vaccini, certifica anche qua 10 nuovi casi di tubercolosi al giorno in Italia. Da padre non mi rassegno a che la tubercolosi torni a girare per le piazze d'Italia. È evidente che c'è più pericolo con il flusso di immigrati. Poi una cosa che non c'entra un cazzo, Salvini, ma incredibile, aspetta, incredibile. Se vado al governo aumento il prezzo delle sigarette. Questa è l'unica cosa giusta che ha detto. Sono d'accordo, essendo fumatore peraltro. Di che cosa si sente in colpa? Di aver ripreso a fumare e da fumatore, se vado al governo aumenterò il prezzo delle sigarette, perché fumare, lo dico in primis a me stesso, è una roba veramente stupida. Si parla ancora della frase di Danna, del senatore Danna, sugli stupri. Io voglio però ripetere quello che ha detto Danna, perché ragazzi, posso anche dare ragione al signor Danna, Cioè, ti assicuro che non ha poi tutti i torti. È chiaro che le donne possono andare in giro come cazzo vogliono, però dice Danna, il desiderio è un istinto primordiale. Ma lo dice per giustificarlo. Il desiderio degli uomini è un istinto primordiale. Le donne siano più caute. E dice, non puoi andare in giro di notte, devono essere più caute. Non è che ha detto che si devono vestire in maniera più succinta. Ma è una sua sciocchezza. Dai, è una su. Sciocchezza. Senti come l'attacca la signora Taverna, 5 Stelle. La manifestazione di inferiorità è l'espressione con la quale il senatore Danna si esprime parlando delle donne. E io ribadisco che in quest'Aula, quando si va a legiferare di animali, bisognerebbe escludere gli animali che qua dentro ci sono e a tutto titolo vengono considerati una razza inferiore. Il senatore Danna si deve vergognare e parimenti si deve vergognare il presidente Grasso e la presidente Boldrini, che non sono intervenuti per sanzionare questa vergogna. Cioè sta dicendo che Danna dovrebbe essere sanzionato come membro del Parlamento, sì, e gli ha dato dell'animale. Ma che ragione, ragazzi. Ma ha ragione la senatrice Taverna dei 5 messo... Stelle. Guarda, questo voglio che sia agli atti. Ha ragione la senatrice Taverna dei Danna, 5 Stelle. A chiamare animale Danna. A chiamarlo animale per queste espressioni molto violente e sciocche che ha usato. Ma non ha detto che le donne se la vanno a cercare. No, io ma è un paragone. Io l'ho letta bene quella cosa. L'hai letta. L'ho letta bene, certo. È tornato il generale Pappalardo. Fermi tutti. Il generale Pappalardo. Li hanno continuato a chiamare golpisti quando io, da presidente del COCER, pensate, io presidente del COCER che avevo solo 26 delegati, sì, ho attaccato il governo D'Alema e gli ho tirato in faccia 18.000 lire. Cosa gli hai tirato in faccia? Cosa hai tirato in 18.000 lire in faccia al governo D'Alema? Il generale Pappalardo, ancora. Questi maiali si erano permessi di dare un incremento stipendiale ai carabinieri di solo 18.000 lire, ai poliziotti e ai militari. Sì, certo. Mi hanno chiamato colpista, ma vi rendete conto? Mi hanno chiamato colpista. Ma di cosa parla Pappalardo? Di cosa parla? Deve alzare le mani, come ho detto già l'altra volta, e arrendersi a un plotone di infermieri. Però questa volta aggiungo infermieri specializzati nelle malattie mentali. Aspetta. Chiamano i carabinieri golpisti che stanno facendo un'eversione. Si è svegliato Franceschini, si è svegliato Alfano. Stai attento, Alfano, che ti verremo a prendere quanto prima. Lascia stare in pace i carabinieri. Ti verremo a prendere, Alfano. No, ma ragazzi, è grave la situazione. Senti ancora, senti. D'Alema primo è intoccabile, Renzi secondo è intoccabile. Voi non potete essere toccati. È vero che non volete essere toccati, ma i carabinieri sono fatti tuort. Sono stuart i carabinieri. Guardano solo la mente alla legge. Sono fedeli solo alla legge e allo Stato. Loro obbediscono alla legge e allo Stato. Non obbediscono a voi, cialtroni. Ma chi si sta rivolgendo? Parla da solo, sul nulla. Il generale Pappalardo parla davanti al nulla. Non lo segue nessuno, nessuno. Convoca tutti per il 10 ottobre. Senti questa. State attenti, c'è il Movimento Liberazione Italia, il movimento del popolo, il movimento che non viene condizionato, il movimento che non subisce, che posso dire, condizionamento da parte di alcuno. Perché non c'è. Noi il 10 ottobre andremo lì, alla Camera dei Deputati, saremo tantissimi, perché il popolo ci seguirà e diremo non toccate l'arma, non toccate l'Italia, non esiste. Sfaguarati e mascalzoni sono due beni preziosi, guai a chi tocca l'arma, ma chi la tocca? Guai a chi tocca il popolo italiano. Forse parla dello stupro, i carabinieri, non lo so, fermi tutti. Con questa trasmissione della zanzara della minchia. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Agrociani, lascialo stare Pappalardo, che è un generale dei carabinieri. È l'unico che ha le palle a scendere per strada, a cacciare quegli infami, quegli abusivi. E tu che fai? Lo deridi. Ma va di andartene a fanculo, va. Luciano, io ti farei passare un mese nella sezione degli ergastolani siciliani, quelli al 41 bis. Ti farei passare un mese con loro. Vedi come ti fanno a carne trita. Pezzo di infamone, pezzo di infamone. Ragazzi, non era una finta, quella è una telefonata vera. Cioè, quella è una telefonata vera. Una telefonata vera. Bah. Poi lo stesso mi ha lasciato un messaggio anche per te, eh. Vabbè, poi no, vedremo. Dubbi. La russa sullo Ius Soli. Senti questo, la russa sullo Ius Soli. Arrivano, non c'è bisogno che ci sia già il papà, lo dichiara dopo il papà quando nasce. Un marito nel frattempo extracomunitario in prestito lo si trova facilmente, nascerebbero le organizzazioni che ti trovano il marito provvisorio, diventa un trucco bestiale. E intanto, caro Parenzo, ma come si fa a dire una roba simile? Ma sono possibilità, ha dipinto uno scenario possibile. Ma che scenario, uno scenario possibile? Tu ti saresti mai immaginato il crollo dell'economia nel 2008 quando è stato? Che la stessa cosa potrebbe accadere con i migranti clandestini. Ma sono cose apocalittiche per far paura. Fermola. È tornata Eva Enger a un convegno sugli UFO. Convegno sugli UFO. La pornostar Eva Enger, ex posto giusto. Enger. No, no, dai. Quello degli UFO, il posto giusto. L'UFO, senti. L'universo è talmente grande e sconosciuto per noi che non possiamo sapere quello che c'è fuori di quel piccolo territorio, quel piccolo perimetro che siamo riusciti a inquadrare. è da ignoranti dire che non esiste la vita aliena. Cioè, noi siamo ignoranti praticamente, lo diceva Enger. Noi non ci crediamo agli UFO, mi scusi signora Enger. Scusi signora, infatti. Sarebbe molto ignorante dire che dare la totale impossibilità di una forma di vita vivente in un altro pianeta. Poi se saranno più intelligenti, meno intelligenti, più evoluti o primari, non lo so. Andiamo con Maurizio, apriamo, caro che Parenzo, delirio. Apriamo. Che delirio. Maurizio, da dove chiami che non ce l'ho scritto qua? Io chiamo da Milano. Vai, dimmi. Bravo. Allora, velocissimo, amo l'Africa, africani, la conosco un po' perché ci ho lavorato. Sì. Vi dico subito una cosa, non è vero, come ha detto il signor Parenzo tempo fa, che gli africani di per sé non sono razzisti. Hanno un odio etnico tra di loro. Ma sì, molto forte. E cosa vuol dire? Molto forte. Bene, cioè, è vero, purtroppo, cosa vuol dire? Ruanda, niente. Ruanda, Burundi, certo. Vabbè, come allora, no, è vero. Allora prima cosa cosa, cambia? Seconda cosa, sì? Non è vero che l'Africa sia un continente povero. Forse no. È uno dei più ricchi che il buon Dio ha messo sulla terra. Ma cosa cambia? Secondo lei perché la gente scappa allora? Perché ha voglia di scappare? Perché non se rubano i soldi lì, sono corrotti. Ma ho capito, dai, appunto, bravo, ma comunque bravo, la gente... Ma non è che sono corrotti quelli che scappano però. Scappano no, perché c'è la corruzione, perché stanno fermo male. Benedetto, ma ciao amico mio, ciao. Benedetto, vai. Dai. Benedetto. Pronto? Dimmi Benedetto, dimmi. Allora, niente, mi riferisco a quella assurda canea di benpensanti che si è scatenata nei giorni scorsi contro le dichiarazioni del senatore D'Anna. Dimmi. Dichiarazioni che io ho sentito molto attentamente e per le quali non c'era assolutamente motivo di scandalizzarsi, perché ha dichiarato da una parte che gli stupratori meritano 30 anni di galera. Ha valutato. Dall'altra ha detto che chiunque, qualsiasi persona di buon senso, consiglierebbe alle proprie figlie, giovani e anche carine, ma non serve che siano carine, perché questi delinquenti trombano anche le vecchie di 80 anni, quando escono la sera, di stare attente, cosa che farei anch'io se avessi una figlia giovane. Dunque tu stai assolvendo il senatore D'Anna per quelle frasi? Sì, assolutamente sì. Cioè anche secondo te le donne un po' devono stare più attente, più caute, devono anche essere più succinte. Come io quando monto in tram, beh, non è la stessa cosa, che non mi borseggino. Come io quando monto in tram sto attento che non mi borseggino. Vabbè, le donne anche devono stare attente. È il momento del delirio, correre questi pericoli. Scusami, delirio. Fammi capire, devono andare in giro con abiti. Vanno in giro come vogliono, ma devono stare attenti. Ma che c'entra? Quello è normale che stiano attenti. Sciocchezza. Ma ha una moglie questo. Io spero che quando torna a casa e ha sentito la zanzara, lo prende a bastonate. Questo sì, qui è Parenzo. No, non è Parenzo, è andato via. Beh, cosa c'entra che sia ebreo o non ebreo? È andato a prenderlo in culo. No, vabbè, scusa, adesso perché cosa c'entra? Perché c'è questo clima di violenza? Scusa, perché andare in sinagoga significa prenderlo in culo? Scusa, spiega. Questo intellettuale che parla. No, perché è l'augurio che io gli faccio, perché ho sentito prima che voleva andare in sinagoga. No, vado, è il capodanno ebraico oggi e quindi me ne vado. E allora che vada in sinagoga. Ma che c'entra prendere in culo? E lei vada invece a fare in culo, vuoi vedere la differenza qual è? Ma scusa, che c'entra? Perché ti auguri? Perché non mi lascia parlare? Ma il fatto che gli ebrei siano stati perseguitati non lo giustifica. Non, ma cosa c'entra? Infatti non ho mai parlato di persecuzione io. Ma non c'entra la persecuzione, niente. C'entra semplicemente un dato oggettivo. Sa qual è il dato oggettivo? Che lei è un idiota. È l'unico dato oggettivo che finora possiamo alle 18.45 pressappoco collaudare, ecco. Bravo, che bravo. Fantastico, complimenti. Ma ciao, sei sempre tu, Benedetto. E questo qui è il tuo argomento. Ma qual è l'argomento? Ha detto delle scempiate inaudite. Ha provato a difendere D'Anna che non c'era bisogno di difenderlo. Io ho detto semplicemente, mi auguro che quando lei fa ritorno a casa, ecco appunto, peggio ancora. Mi auguro, lei ha una moglie, ha una vita. Quando torna a casa, ecco, faccia sto ragionamento idiota a sua moglie, a sua figlia, a sua sorella, cioè a una donna della sua famiglia. Ecco, e la prenderanno a bastonate. E se tu hai tua moglie, ma secondo lei, io dico a mia moglie, ma stare attenta, che cosa ovvio che uno deve stare attento, non è che gli dico di mettersi la gonna lunga perché altrimenti c'è qualche maiale in giro. Ma lei quanto è stupido da 1 a 10? Quanto è stupido? Ma quanto? Questo qui, ma questo da 1 a 10? Ma certo sì, è Parenzo. Che è Parenzo, per forza, parla per è contratto. Parenzo, è Parenzo. Ma lei, ma scusa, quanto Parenzo, è stupido, però? Quando, me lo può dire? Quanto è stupido? Moglie, lo ha quantificato? Lo ha mai quantificato lei quanto è stupido? È mai riuscito? a dare un prezzo alla sua stupidità. Domanda, no, non ci sono domande. È andato via, è andato via. Se n'è andato. Dottore, dottore, è uscito, grande ricevimento per il grande Capodanno stasera. Dottore, è andato via. Che vuoi dire? Voglio fare una domanda a quella damigella del Politically Correct, che è damigella. Alla damigella del Politically Correct. Non è male questa qua, damigella. Voglio chiedere a Parenzo, sì, quando sua moglie, se sua moglie dovesse rientrare la sera, la notte, e percorrere una strada da sola, se non le raccomanda di stare attenta. Ma mi sembra evidente cosa c'è da fare. Su questo ha detto esattamente questa roba qua. Ma a cosa serve dire una stupidaggine simile? Su questo potrebbe anche avere ragione. Fermi tutti. Ma è la fiera dell'ovvio, cosa vuol dire? Fermi tutti. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli. Seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci. Vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport. Ogni domenica alle 21, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, vi stavo ascoltando, ma voi, io ho tre figlie, ma secondo voi un papà o una mamma sarebbe contento se si prendono sti profughi o sti cazzo di marocchini, tunisini vari? Li calcolate veramente come noi? Anche tu, Cruciari, che ti rispetto, ma sempre quell'ebete che hai lì vicino, ma persino tu siete d'accordo? Ma che cazzo parli d'amore? Ma siete consapevoli di sta gente qua? Non tutti, ma quasi. Che cazzo di mentalità hanno? Mi piacerebbe parlarvi di persona, ma non riesco a prendere la linea, vaffanculo. Allora, Davide, io continuerei ad aprire questa trasmissione, perché questa, come sai, è una trasmissione aperta. Aperta a tutto, come sai, pronta a tutto. Ecco, meglio, appunto. Pronta a tutto. Sono talmente incapaci da essere capaci di tutto, come diceva Giacinto, detto Marco Pannella. Talmente incapaci da essere capaci di tutto. Forza, Pierre. È applicabile a noi questa cosa, è applicabile a noi. Scusa, in che anno siamo oggi, che non ho capito bene in che anno siamo? Naturalmente. Oggi siamo nel 5778, è il Capodanno ebraico. Allora, signori miei, Parenzo fa riferimento. Adesso non cominciare a pigliare per il culo. 5778 oggi è il 5, per me è il 5778. Ma vai ad abitare su Urania, vai ad abitare in Israeleania. Ma sai perché? Perché dalla nascita, dalla creazione del mondo, gli anni ebraici si contano dalla creazione del mondo. Ma tu sei in Italia, quindi in Italia. Ma sì, d'accordo, siamo in Italia. Poi, ma nel mondo, soprattutto nel mondo, oggi... nel 2017, nel mondo, per il mondo, anche persino oggi per i cinesi, persino per ebraico, persino per Kim Jong-un, siamo nel 2017, non nel 5700. Io sono nel 5 è facile. 5778, anno ebraico. Va bene, straordinario. Luca da Viterbo, Rosh Hashanah si chiama, dove la parola Rosh vuol dire testa. Rosh, ma io in conosco ebraico. Rosh Shield. Beh, Rosh, io lo conosco, un'ottima Luca persona. Da Viterbo, Rosh, fammi vuol sentire dire testa. Non lo voglio sapere. Hashanah, anno, quindi capodanno. Oggi è il capodanno ebraico. Luca, quindi auguri da Viterbo a tutti, grazie. Luca, gli auguri che mi arriveranno, sicuramente quanti numerosi. Dimmi, Luca. Ecco. Allora, io ho provato a telefonare ieri in merito alla signora di Lodi che si arrabbiava per quella questione. Sì, tu hai il viva voce o l'auricolare? No, assolutamente no. Vabbè, dimmi, provo dai. A mettere la bocca più vicino al microfono. Ecco, mi bravo, sì, ora. Bravo, vai, dimmi, dai. Allora, io sono un sottufficiale della Polizia Ferroviaria e volevo invitare ufficialmente il signor Parenzo ma non una settimana, basterebbero 6 ore. Da sì. noi, visto che fai il giornalista, quindi può essere anche un sì, vengo volentieri, verificare vengo volentieri. Quanti italiani non pagano il biglietto in confronto a quanti sì, extracomunitari sì. non lo pagano. No, ma fallo, infatti io ho falla già tu, detto. Aspetta, falla tu la cifra, dimmela tu la cifra. 99,9% e non ho problemi, sicuramente sto ragionando per difetto. Scusa, tu fai parte della polizia ferroviaria dove? A Viterbo? Diciamo in provincia di Viterbo, ad Orto, per la precisione. Chiaramente io parlo a titolo personale. Sì, caso. Sì, perché tu stai dicendo, semplicemente stai enunciando, stai fotografando la situazione. Per questo sono il 99% di quelli che non pagano il biglietto. Va bene, ma... e penso anche che se ne fottano di questa cosa qua, giusto Luca? Assolutamente, ma il problema io volevo... Infatti per questo ho proposto l'idea di un salvacondotto, cioè l'idea che chi è rifugiato e profugo abbia una sorta di card, di free card, che può prendere tranquillamente il mezzo pubblico. Ma ti pare normale proporre sì? i biglietti gratis per i richiedenti asilo o i richiedenti felicità? Non è biglietti gratis, si chiamano proprio, deve essere fatta proprio una carta, si chiama la carta del migrante. No, no, la molto carta del migrante. Certo, una grande carta del migrante. Cioè come gli anziani così che li vanno togli, gratis. Bravo, li ma forse togli nemmeno gli anziani dalla illegalità, capito? Cioè, non gli, aspetta, non... però è interessante Luca è interessante per un motivo molto semplice. È interessante perché è un testimone diretto, un ufficiale di polizia ferroviaria, il quale sostiene che cosa? Che il 99% di quelli che non pagano il biglietto sono immigrati. Ma capirai, allora Luca non ho capito, e poi che succede concretamente con queste persone? Vengono invitate allora, a scendere oppure la maggior parte? Il problema fondamentale, io potrebbe andare bene la proposta di Parenzo, pure che fosse, ma diciamo, che bene, ragazzi, non legalizzata. Esatto, nel senso, se decidiamo è una proposta radicale gratis, no, dai, su. Se decidiamo di fargli viaggiare gratis. Ma vi ha dato di volta il cervello. Ma siete pazzi? La gente si fa un culo così per pagare. La gente non si fa ridere. Cruciani, il problema è che tanto non pagheranno. Sì, vabbè, d'accordo. Che è una pretesa quella di viaggiare gratis. Certo, signori. Io mi ricordo quando ero ragazzo che studiavo a Todi. Sì. Quando alla fine della settimana avevo puttanato tutti i soldini che mamma mi dava. Sì. Per tornare a casa facevo l'autostop perché mi vergognavo a salire in treno e non fare il biglietto. Per questi signori invece il problema non esiste, ti ridono in faccia, tanto sanno che saranno impuni e gli italiani purtroppo si accorgono di questa questione e si incazzano. Grazie Luca, grazie. Io vorrei sollecitare Parenzo a fare questa riflessione. Sì. Questo l'atteggiamento, diciamo, permissivo, arrogante anche di questi, permissivo permissivo e arrogante loro. Di queste nostre, diciamo, ben pensanti, sta portando il baricentro dell'elettore medio a destra e il problema è proprio per sicuro. Grazie, sicuro. Ho capito tutto. Alberto da Milano, Alberto. Pronto? Dimmi Alberto, dimmi. Io da molti anni ho il pass dei disabili, purtroppo avendo 78 anni e qualche ciacco. Sì. Ho sopportato tutti questi, oserei chiamarli vigliacchi, che occupano i nostri posti. Sì. Ho chiamato i vigili qualche volta. Cosa occupano? No, quelli che occupano il posto dei disabili, come è successo a quello della Ferrari. Sì, quelli sono italiani. Sì, italiani sono quelli. Ma chi se ne frega se allora, sono italiani o no? Dai. No, adesso d'ora in poi verrà sempre detto chi commette il reato o la schifezza. L'italiano con la Ferrari, italiano. Saluto, sopporto Parenzo che aspetta, Alberto. Allora, scusi. Aspetta, Alberto, stai tranquillo. Oh, ha chiamato Donato, vai Donato. Ciao ragazzi. Ciao Donato, dimmi. È tutto triste, allora, la voce triste. Per quanto riguarda quel signorino lì, come si chiama? Quello, Prodi, lo conoscete Prodi? Aspetta che devi alzare la voce, no, Donato, perché non si capisce niente. Lo conoscete Prodi? Sì, Prodi, certo, lo conoscete? Certo, è stato uno dei più grandi premier italiani, certo, non c'è dubbio, un grande statista. Come cazzo di Rocco Siffredi è stato. Oh mamma mia, ma che schifo. Ma chiudilo. Vabbè, non lo voglio sentire. Allora Romano Prodi prende tutto il responsabile. Viste che molti giornalisti non parlano di Romano Prodi perché di hanno paura. Perché Romano Prodi è come se fosse, no? Ma cosa dice? La baldracca delle sinistre. Ma no? Come si permette a dire questa roba? Ma sei un impunito! Ma basta! Sei un impunito! Ho detto che Prodi è una baldracca, ho detto che. È una metafora. Io l'ho detto come se fosse una. Vabbè, senti l'altro. Una metafora. Cosa vuol dire la parola metafora? Prodi, quello che ha fatto, Prodi già avrebbe già dovuto essere mangiato dai vermi, già 40 anni mangiato fa. Combinato, 30 anni ma tu ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto cosa stai dicendo questo abominio? Ma sei toccato una bici di garanzia. Sei un abominio. Sei un abominio di persona di garanzia. Vabbè. Perché i giudici rossi ancora. hanno in qualche modo dato la direzione, vabbè, la politica come dovesse andare. Prodi dovrebbe stare in galera per i danni che ha fatto all'Italia. Ma adesso perché ce l'hai ancora con Prodi? Dell'IRI. Io voglio sapere se al posto di Prodi ci fosse stato Berlusconi. Berlusconi lo avrebbero incendiato in pubblica piazza. Questo, ma io ripeto, dice? Fino alla morte, proprio gli spazi non ce l'ho. Allora, questo paese... Scusami, ma perché adesso ce l'hai con Prodi? Spiegami. Prodi, non dico che è un assassino che ha ammazzato i vicini di casa. Prodi ha fatto delle cose che questa Italia l'ha buttata in delle sabbie mobili dalle quali noi non potremo più. Poi si permette ancora di uscire dagli Ussoli, giustificare gli Ussoli. Io non farei lo Ussoli, io farei fuori dai coglioni una legge. Che cos'è questa legge? Fuori dai coglioni! Cos'è questa legge? Non l'ho mai sentita, per fortuna non c'è. Una legge, semmai, per aiutare chi ha costruito questa Italia. È interessante, allora invece... Ma come interessante? Aspetta. Interessante questo delirio. Interessante. Ma non è che l'islamico dispezio per questi per gli italiani. Ma cos'è interessante? Lui la difenderà semmai per Allah, non per questa terra. Fermi tutti. Allora, Donato dice, lo Ius Soli no, sì invece al fuori dai coglioni. Fermi tutti, fra poco torniamo, fermi. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Sei un classista razzista, Parenzo, lo vedi che la gente lo comincia a capire. Sei un classista razzista. Sono convinto che a Cruciani non interessi minimamente dei vitalizi ai parlamentari, solo ed esclusivamente per strizzare l'occhio al popolino, al solito popolino. Una cosa triste. Caro amico, amico mio, devo dirti molto sinceramente che invece ci credo, è come strizzare l'occhio al popolino. Male. Cioè, amico mio, qui non si fa nulla per finta, per fingere, non ce ne frega niente di fingere. Assolutamente penso che i vitalizi vanno cancellati, non diminuiti. Eccolo qua. In piccole dosi, con uno sconto ai parlamentari. No, vanno cancellati tout court. Cancellati. Pure quelli del passato, hai preso troppi soldi fino adesso. Eccolo qua, cancellare anche quello del passato. Eccolo chi vuole distruggere la politica. C'è una rubrica speciale. La rappresentanza. Donato è ancora in linea. C'è una rubrica speciale. Ma Donato chi è ancora? Donato da Varese, uno dei simboli della nuova Italia. Uno dei paladini della nuova Italia. Ma i simboli saranno... Tu distruggi le imprese, Cruciani, e non lo fai dalla radio della Confindustria. Stai cannoneggiando questo paese. Come fai a dire che uno dei simboli della nuova Italia, quel criminale che sta lì a Varese, non ha mai prodotto nulla nella sua vita? Lo definirei un patriota. Ma tu sei... Ormai sei completamente andato. No, io lo definisco un patriota, però è uno dei patrioti della nuova Italia. Sei che un è contro la sinistra. Faccio come lui. Sei un criminale, Tu sei un criminale, cioè stai assassinando questo paese. Gli investitori non vengono in Italia anche per colpa tua dall'estero. Adesso c'è la Brexit, bisogna portare in Italia molti, come dire, degli enti europei che erano lì, l'Agenzia Europea del Farmaco. Sì, l'Agenzia Europea del Farmaco deve venire a Milano. Non verrà per colpa tua, perché se uno inglese ascolta e si fa tradurre questa radio a queste ore solo, dalle 18.30 alle 21, non viene, dice ma che paese è quello? Chi c'è? Chi vive in quel paese? Razzisti, puttane, transessuali, gente che fa la pipì dei lavandini, gente che si scaccola. A proposito, descrivi un paese che è una porcheria, lo distruggi questo paese, non verrà nessuno a investire qua. Stai distruggendo questo paese. A proposito, il peggio di Radio Calabria fu Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Qualche giorno fa, sempre a Radio Padania, una tale Ilaria Preti ha detto che in sostanza gli attentati terroristici, i giudici anche, anzi in Italia, sono peggio degli attentati terroristici, cioè fanno più danni i giudici degli attentati. Una di Radio Padania, te lo ricordi, l'abbiamo mandato in onda nei giorni scorsi. Sì, no, senti, risentiamo. Dimentico, scusami, risentiamo, se mi dimentico risentiamo, risentiamo. guarda oltre i monti. Ognuno dei due abbiamo i guai, tu c'hai gli attentati, noi abbiamo i giudici impazziti. Cosa preferisci? Meglio gli attentati. Meglio gli attentati, eh sì, dare un po' più di sicurezza agli attentati. È un po' meno pericoloso, stanno nel mucchio, però vabbè, perlomeno sono solo attentati, non ti portano via il conto corrente. Però gli attentati sono fatti da criminali, mentre quello che sta succedendo in Italia è fatto da chi dovrebbe regolamentare la giustizia. È questo che fa paura, più dell'attentato. Sì. Servi di Roma fuori. Senza io ho sentito oggi che avete paragonato praticamente gli attentati, sono peggio i giudici degli attentati di Londra, vero o no? Non lo so, non lo sa, ma non, lo sa che sta succedendo l'ira di Dio anche qui a Firenze per questa frase esternata da una vostra conduttrice oggi? Guardi, non risulta sinceramente. Non risulta, no. Non risulta il signor Pellegrin, capito? Non Coniglio. Risulta, ascolti la sua radio, ascolti Coniglio. La sua radio, signor Pellegrin. No, non lo ascolta perché gli fa schifo pure a lui. Senti, senti. Evidentemente si vergogna pure lui delle porcherie che manda in onda. Caccia oltre il fiume. Da dove l'ha sentito questo? Cioè, citiamo le fonti prima di tutto. Allora, le fonti probabilmente sono autorevoli. Stanno parlando Radio 24, la Zanzara. Va bene, ma dai, ma su, il bambino scemo, lo sguattero del padrone, ma quei due lì. Ma quei due, ma dai, ma quei due lì. Allora, il bambino scemo saresti tu, lo sguattero del padrone grazie. Sarei io. Perfetto, perché bambino scemo? No, ma soprattutto Pellegrini non si rende conto che qui non c'è nessuna fonte. La fonte è lui stesso, la stessa radio in cui lavora. Cioè, è là che l'hanno detto, noi abbiamo semplicemente riportato. Cioè, avete sentito tutti, no? Non è che abbiamo stravolto. No, abbiamo riportato le frasi esatte, l'audio, c'è l'audio. Informati, imbecille. E lei se allora, ascolta lei... se ascolta lo sguattero del padrone il bambino scemo senza comprendere il bassissimo livello intellettuale, i contenuti assolutamente quasi schifosi, ributtanti anche dal punto di vista morale, insomma, con chi parlo io? Se lei non, allora, se lei non riconosce la bassezza, l'inadeguatezza, di quei due personaggi, con chi parlo io? Io le ho già detto, non lo so. Roma fuori. Allora, io vorrei ricordare a tutti che colui che dice che noi siamo moralmente persone moralmente noi. Disdicevoli noi, lo stesso Pellegrin è uno che una volta ha detto che preferisce la mafia allo Stato italiano al sud almeno da qualche servizio. No, ma io vorrei dire solo questa frase: noi certo ospitiamo Pornostar, cosa che fa pure Radio Padania, peraltro Radio Padania quando esisteva naturalmente, adesso si è trasferita non so dove nel mondo del paradiso. Preferisco la mafia allo Stato italiano, al sud almeno da qualche servizio. Questo è il signore che sta parlando, ci sta facendo una lezione morale. Sali Padania. Ma lei sembra come cittadino di essere serio? Lei si preoccupa di due deficienti, non dementi, molto peggio. Non posso dire le parole se non l'ordine mi radia e loro mi denunciano, io non posso pagare più l'affitto e finisco in mezzo alla strada. Ma quello che ho in testa verso quei due personaggi è irriferibile. Lei guarda, lei segue quei due lì e le sfugge perché riferiscono una frase che io non so se è stata detta e le sfugge la portata di una sentenza come quella, le sfugge completamente, non si rende conto. Ma che cazzo di cittadino è lei? Ma che cazzo di cittadino è lei? Ma che razza di cittadino è? Ma non si vergogna? Ma lei non si vergogna di essere socialmente quello che è? Ma lei non si vergogna? È un peccato darvela vinta, perché non siete neanche divertenti, siete ripetitivi e siete anche noiosi e siete anche odiosi. Ascolto che mi ascolta la Zanzara, ma dai, ma va a cagar! Ascolta la Zanzara, ma va a cagar! Ascolta la Zanzara, ma va a cagar! Il falso che ci spreme sfonda il muro di onnipotenza. Ragazzi, no words, come si dice, no words, non ci sono parole. Pellegrini, ripeto, uno che ha detto preferisco la mafia allo Stato italiano. non ci sono parole, basta questo per classificarlo, dai, su, ma chi se ne frega poi. Donato, vai, Donato. Ecco un altro, da un matto all'altro si passa. Io a questo a nome, per me, guarda, sai che ci sono degli aggettivi che da si un matto all'altro di essere adoperato su questo soggetto. Comunque, da un matto all'altro, da un matto all'altro, allora, da un matto all'altro in pochi secondi. Io voglio, siccome ecco che per parlare con un magistrato è come andare a mettersi a parlare con Dio, perché con Dio è forse più, tu in preghiera parli con il Dio della Bibbia, parla del Dio della Bibbia, il vero Dio, il vero Dio della Bibbia, il vero Dio della terra, italiana, del mondo. Ma cosa è uno Dio? È il nostro Dio. Non si pronuncia il nome, sì. Dobbiamo adorarlo. Gli altri Dio non c'entrano un cazzo. Allora, ma quali altri? Non ci sono altri, è uno unico, lo puoi chiamare Allah. Ma di che vuoi parlare? Non sa niente, non sa niente sto salame, basta. Non sono andata a mettere le cimici sotto i coglioni di Prodi e di Benedetti quando hanno rovinato l'Italia. La conoscete la Romeo Chiarese? Come negli anni 70 è venuto quel porco Prodi a distrutta. Ma perché non lo querelo? Ma io non capisco. Scusa però, ma Woodcock dov'è? Ma dov'è Woodcock? Dove sei? Harry! La sinistra corrotta, la sinistra assassina, la sinistra che sta cambiando questo popolo, la sinistra che spende 5 miliardi per gli africani e per gli italiani lasciano morire. Non votate Renzi, non votate la sinistra, è Satana, la sinistra è la direzione del porco Satana che ci ha cagato sulla terra. Sto guardando Gentiloni. Gentiloni, quel coglione, è un uomo che non si ma dove è Woodcock? Dov'è Woodcock? Henry John, dove sei? Henry John Woodcock, ti prego, dove sei? Dove sei? Lascia Woodcock, questo, dove sei? Questo chi? Servo delle Woodcock? Sue piattole. Queste le chi piattole sarebbe? Che c'ha lui sul cazzo. Ma chi è? Ma chi? Rispetta ma più le piattole parla? Che gli italiani. Questo è nemico dell'Italia. Ma chi sarebbe nemico dell'Italia? Questo, se vedo un italiano morire, non gli interessa un cazzo. Ma di chi parla? A te, quanti seguaci hai? Quanti seguaci hai? Quanti seguaci hai? Io ho 5 profili, mi arrivano sul profilo almeno 300 messaggi al giorno. Dunque, ma quanti forza, statisticamente 300 squilibrati ci saranno. Ma purtroppo c'ho il dono dell'arte, non sono un politico. Beh, dormi, ma sei un coglione, sei un malato, infatti. Sono pronto a smascherare anche questo coglione. Candidato, candidato, candidato, candidato. Perché non si candida con 5 Stelle? Ciao Donato, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Impio. Naturalmente. Alberto? Alberto, ci sei? Alberto, allora, Parenzo ti ha interrotto prima. Stavi raccontando una storia. Tu sei disabile, hai un posto, diciamo. Io sono handicappato, perché disabile mi fa ridere quando sei handicappato. Dice diversamente abile. Diversamente abile, una bella cippa. Abbiamo dei problemi. Handicap, siamo penalizzati. Che da tipo anni di handicap hai? Io ho una semiparalisi alla gamba sinistra. Sì, ok. E dunque hai la macchina hai la macchina con il permesso, sì, eccetera. Ho 78 anni, malgrado questo ho la fortuna di lavorare ancora, per cui uso la macchina molto. Sopporto da tanti anni questi vigliacchi che parcheggiano, perché sono solo vigliacchi. Ultimamente, e so di non dire una bella cosa, nei momenti di rabbia io gli buco due gomme. Beh, amico mio, direi che so che adesso Parenzo vorrà chiamare l'avvocato per No, assolutamente. L'avvocato Trucchi, senz'altro. Trucco si chiama, Trucco. Ma fa benissimo. Chiedo l'avvocato Emilio Trucco, ma lei fa benissimo a fare questo atto. Non faccio bene, perché è come minimo un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è un danneggiamento. Sì, però è un gesto così brutto, è così da vigliacchi, perché è facile, no? Essere impuniti, parcheggiare. Creare dei problemi. Lei ha detto una cosa molto giusta: parcheggiare negli spazi dedicati ai disabili dovrebbe scriminare dal punto di vista del diritto se lei poi gli buca le gomme. Cioè, tu stai dicendo che fa bene a bucare le gomme? Sì, assolutamente, non dovrebbe essere reato, non dovrebbe essere nulla. Non è che lo faccio tutti i giorni. Cos'è che ti scatta? Alberto. In particolare se sono macchine importanti, che da ricchi. Cos'è quello che molto ti importante. Sono stato anche denunciato per danneggiamenti da un signore davanti. Moratoria. Adesso è lunga e ho pagato 516 euro di multa. Male. se il disabile, se il disabile trova male, se il disabile, infatti va, questo è un, va depenalizzato secondo me, quando uno buca, scusami, le Alberto, gomme, hai pagato una volta 516 euro, ma che cos'è che ti prende quando vedi una macchina così, cioè che ti partono i 5 minuti, se ti parte la giornata è storta, perché tutti possiamo avere delle giornate di ordinaria follia, sì, io ho un punteruolo e trovo, mi sfogo, ma so che sbaglio, mi sento una cacca, sì, però gliene buco due, perché uno la cambia, almeno prova lo stesso disagio che provo io, deve chiamare il meccanico, deve stare lì, perché è troppo facile sparare sulla Croce Rossa. Ma come fai? Che c'hai, un coltello, sì, sì, un punteruolo? No, un punteruolo. Ma ti è capitato, qualche volta di incontrare, di incrociare il proprietario della macchina che stavi bucando? Sì, infatti ho chiamato i vigili, i carabinieri, mi hanno denunciato. Quell'unica volta là? Sì, ma non è che l'ho fatto 2000 volte, l'ho fatto 4 volte di proprio di uno sfogo in giornata storta, l'ho trovato un modo per una stupida vendetta, non lo so. So che non è bello, sia chiaro. No, ma amico mio, guarda, hai fatto, dal mio punto di vista, hai fatto benissimo. Uno sfogo può stare. Posteggio occupato, posto occupato, buchi le gomme. No, posto occupato quale? Il posto occupato dei disabili. Disabili, certo, se no. Ciao Alberto, grazie per il vostro conforto. L'avvocato trucco è disposto a difenderla gratuitamente. La prossima volta che qualcuno ti fa una multa, facciamo un po' di casino, perché altrimenti uno paga e basta. Assolutamente no, non devi pagare. Ciao. Donato è un eroe. Eccoci qui. Dopo Donatone e altri. Ricordo intanto altri. A tutti gli ascoltatori che oggi è il Capodanno ebraico. Siamo nel 5778. Siamo nel 2017. Basta. No, 5778 dalla creazione del mondo. Vabbè. E tra un po' vado in sinagoga. Tra un po' più avanti. C'è un augurio meraviglioso che in ebraico si fa, che ve lo faccio a tutti voi, anche se non ve lo meritate. Dimmi. Si dice Shana Tova, cioè buon anno, per un anno dolce e ricco. Vabbè, ricco di successi. Va ripetuto, va istruito. Vittorio Sgarbi, ciao. Eccoci. Vittorio. Concorso esterno, c'è bisogno del vostro aiuto, perché sono stato gravemente offeso e maltrattato. Io sono a Novara, dove c'è una grande mostra dal Rinascimento al Neoclassico. A un certo punto finisce l'inaugurazione, mi collegano con Tagadà. La e sette, dall'altra sì. parte sì. Tremonti a parlare di Rinascimento. Sì. Dopo quattro cose cominciano a parlare della Sicilia. Sì. E fanno i seguenti dati: 25% il Giorgio Cancellieri, 25% Claudio Fava, sì. 8% il candidato del PD, 32% sì. quello della destra. Sì. Dati, insomma, tutto è probabile, ma non veri, sì. in cui io vengo completamente ignorato. Sì. Fanno il giro per consultare quelli che sono lì sui dati sì. e mi ignorano completamente. Poi cominciano a parlare di Di Maio, una nullità, non so chi sia Di Maio, sarebbe un grande tema. E poi ma non ti interpellano? Non ti interpellano? Non mi interpellano mai, mi interpellano su Ryanair. Poi dico, ma che cazzo di televisione è? Ma chi se ne frega di Ryanair? Ma che argomento sarà? Chiamate il ministro dei trasporti. Se uno perde un aereo si incazzerà. Dico, tu dimentichi che sono candidato. Mi ignori. Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo sei? Ma che televisione è? Questo è un po' adesso devo dire. Alla signora Parelli. E dopo che è successo? Sembra eccessivo, infatti, detto, una reazione eccessiva. Sei stato aggressivo. E poi interrogano Tremonti, il quale parla in maniera molto paludata di rispetto. E continuano a ignorare la Sicilia. A questo ragazzi, ma perché non l'hai mandati a fare in culo? Scusa. No, l'ha fatto purtroppo. Alla fine l'hai mandati a fare in culo. Però loro facevano gli offesi. Ma sei stato aggressivo, potevi scusarmi. Ma l'aggressività non è nelle parole spesso. E anche negli atti, anche negli atteggiamenti. Io sarò l'ultimo candidato del mondo, ma sarà una notizia che c'è il Rinascimento in Sicilia, che Sgarbi l'unico che ha fatto qualcosa per la Sicilia sono io. Gli altri che cazzo hanno fatto? Danno i soldi ai forestali. Cazzo sono gli altri. Danno i soldi ai forestali. Gli altri danno i soldi ai forestali, ragazzi, su, forza. Io sono Sgarbi, tu i forestali. Un cazzo. Li licenzieresti nessuno. Li licenzieresti, dice, un po' di forestali tu, sì. Ma i forestali vanno messi nei luoghi dove servono, quindi anche a presidiare i musei, i palazzi. Il tema questo è buono, vedi, questo è buono. Dell'operatività. Via i forestali da dove non servono un cazzo, cioè in Sicilia, e metterli sempre in Sicilia, nei musei, certo. eccetera. Scusami, però Di Maio, che ne pensi della candidatura di Maio? Di Maio, ma fare idea, cioè, Di Maio l'hai visto, ma è un personaggio comico. Cioè? Di Maio esiste solo in ciò che ne dice De Luca, che fa Di Maio, giovane diplomato, di cui non si sa che abbia mai lavorato, elettrotecnico. Cioè, ma chi cazzo siamo, questo webmaster, che web... un elettrotecnico, ma chi cazzo è Di Maio? Ma si vergogni di dirlo, ma vada a fare in culo, credo tutti gli altri, ma siano la degli uomini che abbiano studiato, che abbiano i coglioni, almeno Parenzo vogliamo, non di sembra mai. Un DC, sembra un vecchio DC, ma meglio di C a quel punto, meglio di C, almeno sì, sì, meglio certo. Di C, ma poi ha fatto quasi bene Saviano a candidarsi, poteva farlo veramente almeno. Perché non ti candidi anche tu? Ah, no, io sono già candidato per i cazzi miei, no, non voglio contaminarmi con nessuno, ma poi voglio dire, la pantomima che dobbiamo dare, cioè loro hanno un candidato, è una notizia, finisce una breve. Sì. No, sono sei giorni che parliamo di Di Maio che non ha i rivali, non hai rivali, se non hai rivali Di Maio, figurati. Di alt- senti, ma Nardella e le prostitute, Nardella... E su quello massacro secco di Nardella, l'ho massacrato perché lui si è dimenticato che le prostitute non sono tutte sfruttate, alcune lo vogliono fare e si chiamano... travestiti, il travestito, ma anche quelle non travestite però, anche ma no, quel travestito però sì, tu ti metti, pensa Parenzo, due ore per metterti le sopracciglia finte, le tette finte, lo smalto e tutto questo lavoro, sei pure uno che deve essere punito, hai fatto quella cosa e il cliente è uno sfruttato, non uno sfruttatore, questo è uno è bello, di cui sfrutti la minorità psicologica, il suo essere un miserabile, cioè il cliente è lo sfruttato, sì. E tu gli porti via i soldi e rovini il mercato, ma che roba è? No, ma dai, ma se poi riaprono le case chiuse. Nardella si è inventato una misura parenziana ma stupida, perché Parenzo dice che sono dei miserabili, in quanto miserabili non sono neanche colpevoli. Sì. Non sono persone che fanno contro le prostitute, Però le prostitute fanno... hanno quel lavoro lì e gli danno lavoro. Scusami, ma perché secondo te comprano il corpo gli uomini donna. Sono così attratti dai trans? Anche tu per un periodo, lungo periodo della tua vita. No, ma il primo che me ne parlò era Franco Maria Ricci, perché il trans è una donna al cupo. Come la donna si maschilizza, si taglia i capelli corti, mette i pantaloni, cerca di essere uguale, lo profile. Sì. Il travestito è iperbolico, è come dire, un'enfasi della donna, ha più tette, ha più capelli, ha più smalto, ha più colore. Però c'è il cazzo. Quindi, sì, vabbè, il cazzo è un elemento in più, infatti anche quello, però è un personaggio felliniano, poi qualche volta non ce l'ha, ce l'ha quella che chiamano la sorpresina. Sì, quando vedi la pubblicità sui giornali, compresi quelli importanti come il Messaggero, c'è scritto trans, bella, bionda, completissima, che vuol dire che ha il culo e anche l'uccello, completissima. Ma questo non significa che se uno va a trans, l'abbiamo ripetuto più volte, è gay, assolutamente, quando tu sei andato con i transessuali, ne hai frequentati a lungo? Sì, ma la prima che ho frequentato era Vladimir Lussuria, che era particolarmente, non proprio una bellezza, una vendere, però era spiritosissima, divertentissima. Ma te l'uccello dei trans ti piace o no? Beh, su questi dettagli. No, l'uccello dei trans no. Mi piace. Il mio, l'uccello dei trans, è un incidente di percorso, se non è che tu lo prevedi, lo trovi. Quando lo trovi cerchi di toglierlo. E basta non trovarlo. Però molte persone sono appassionate. No, certo, io ho avuto degli amici molto intelligenti che hanno scambiato dei trans per donne. Senti, ma ultimamente è tornata di moda, da quello che leggo, la figa col pelo, per fortuna. Ah, io sono il massimo esponente, anche tu credo. Anche perché rientra in epoche in cui ci si lavava di meno. Ecco, vogliamo fare un elogio sgarbiano senza essere interrotto. Un elogio sgarbiano della figa pelosa. Mi pare inutile. Vai, Vittorio, vai. Produzione. Guarda, il tema della figa pelosa è lo stesso del calvo. Il calvo, ce ne sono pochissimi che si tagliano i capelli e non soffrono di essere calvi. La più parte soffre perché il pelo è come la corona della testa ed è anche la corona della figa. C'è un coronamento, è un'armonia, è un bosco in cui tu trovi un mistero, trovi il segreto che cerchi. Cioè se tu levi tutto per ragioni igieniche, trovi questa cosa piatta che è come uno cui piace un pelato. Un pelato, uno su mille, si piace e piace. Occorre che sia Yul Brynner. Il pelato generalmente è uno che soffre d'aver perso questa corona, quest'aura che sono i capelli. E la figa ha i suoi capelli che sono il pelo. E quanto più sono come quelli di Courbet, Origine del mondo, capolavoro assoluto, di cui quindi si può parlare, non sagomati. Adesso, per vedere quelle che sono in rapporto con me, devono farsi crescere il pelo. Però se lo tagliano, perché è un obbligo, altrimenti io non passo. Non, certo, non vai. Perdere, cioè, voglio non vado. Cioè la figa glabra non ti piace, quella glabra la scarti. Non può piacere a nessuno. La scarti. Piace alle donne perché loro lo intendono come una forma di pulizia. Sì, però a nessun massimo piacere. Sì. Dicevi le donne che vanno con te? Dici sono? Le donne che vanno con me se la rifà, se la lasciano crescere, però la sagomano un pochino, la disegnano. No, deve essere selvaggia. D'altra parte, partiamo dall'opposto, cioè oltre alla figa, la donna ha anche la testa, è bella, ha cattiva intelligenza, perché non stiamo con una figa pelata? Tanto sarebbe più comodo, si lavano meglio la testa. È vero, hai ragione. Come togliersi i capelli dalla testa? Il capello è l'ornamento della testa, per l'uomo e soprattutto per la donna, e la figa ha bisogno del pelo per dare il senso di una cosa protetta, difesa, nascosta. Assolutamente. Assolutamente. È come un bosco in cui tu entri. Ciao Vittorio. Allora, ragazzi, concorso esterno, viva la Sicilia. Ciao. Arrivederci, professore. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Lorenzo, se uno sta al Cara di Mineo e nulla facente, nulla tenente, tutte ste robe qua, effettivamente non deve pagare il biglietto, deve andare a piedi perché non ha un cazzo da fare tutto il giorno. E quindi se vuole va a piedi, e se no, sai cosa puoi fare? Sei che non costa nessun biglietto, se ne va a fanculo insieme a te, tutti e due, andate a fanculo, tu e lui. Vai a fare in culo, Parenzo. Ma che cazzo stai dicendo? Gli italiani non pagano il biglietto. Ma porca puttana, cazzo, se lo paghiamo il biglietto tutti quanti in fila indiana. Vai a vedere chi cazzo c'è alle casse della metro a pagare gli abbonamenti o i biglietti. Noi italiani ci siamo, testa di cazzo. Hai capito? Coglione. Se noi non paghiamo un biglietto ci fanno una multa, e non paghiamo la multa ci portano via la macchina, la casa, lo stipendio. Ma che cazzo stai dicendo? Certo che è un africano, è una bestia ed è un animale, è uno stronzo, e non è vero che sei italianizzato, sei solo fanculizzato, perché è lì che deve andare a fare in culo, è chiaro, Parenzo? E tu insieme a lui, vaffanculo, fottuto bastardo. Guarda, io ti denuncio, eh. Sia un clima a me ostile, ma non è un problema, è la minoranza. Ma chi va ostile? Sai perché si è creato? Sai perché si è creato? Perché tu hai detto che bisogna che gli immigrati abbiano questa famosa tessera, lo hai già ripetuto. Non tutti questa gli famosa... quelli che lavorano, i rifugiati. I rifugiati, beh, non quelli che lavorano, i rifugiati, quelli che lavorano pagheranno con i soldi loro. I immigrati in generale. Se un immigrato lavora, al permesso di soggiorno e lavora, non paga, gli va fatta la multa, è capitata a casa, arrivederci, grazie. E poi? I cosiddetti rifugiati, invece, quelli che hanno però bisogno di avere una mobilità anche per cercarsi un lavoro e quant'altro. Non avendo soldi, hanno bisogno di una mobilità. Va legalizzata la situazione di illegalità in modo da disinnescare dei conflitti. E poi hai detto anche che sono gli italiani a non pagare le multe. Spesso ci sono tanti italiani che non pagano le multe. Questo mi pare evidente. Biglietti, anche le multe, ma i biglietti, le cartelle esattoriali. Vabbè. Ma in particolare sui biglietti, soffermiamoci sui tifosi, ad esempio. Ma che c'entra i tifosi delle squadre di calcio, che sono migliaia di persone in tutta Italia, devastano letteralmente. Ma cosa c'entra? Ma cosa treni, c'entra? Pullman, autobus, eccetera, nel silenzio più totale. Prova tu ad andare quando c'è la trasferta, che so, io faccio un nome a caso di persone pacifiche, dell'Atalanta. Ma chi ha detto che va bene? Citiamo i tifosi dell'Atalanta, che sono i più pacifici in assoluto tra le tifoserie italiane, o quelle del Napoli, ad esempio. Altre persone che fanno del buonismo e dell'amore verso le altre tifoserie una cifra. I napoletani tifosi ultras, persone buone, alle quali se tu vai incontro durante una trasferta, loro sono in un pullman, e gli dici: scusami, mi puoi far vedere il biglietto del viaggio, visto che stai andando a Milano da Napoli? Oh, biglietto da viaggio, andiamo a cattà, e menano spesso il povero adesso, malcapitato. Non sempre, però è successo, non solo ai napoletani, devo dire la verità, io a tutti, ti invito, quando gioca il Napoli, come Donato da Varese parlo, ti invito a provare a salire su uno di quei treni e a chiedere gentilmente all'ultras del Napoli il titolo di viaggio in suo possesso. Ti chiedo gentilmente di chiederglielo. Vabbè, lui diceva. Allora, c'è un ristorante, caro Parenzo. Adesso non vorrei che si arrabbiassero anche i tifosi. Sicuramente. Mi pare, il clima certamente mi pare sarà così. Allora, ci sono ristoranti vegani i quali non consentono. Ah, a proposito. Aspetta, ci sono vegani. Aspetta, dire. Ci sono ristoranti vegani che non consentono di portare dentro il ristorante un infante, un bambino con il latte e il biberon. Cioè, sono talmente pazzi che non vogliono che dentro il ristorante entri un bambino allattato con il biberon, con il latte, diciamo, non quello della mamma, ovviamente, con il latte comprato non so dove. Senti un po'. Buongiorno. Sì, buonasera. Parlo con Lughino? Sì, buonasera. È possibile prenotare per stasera? Ah, possibile. Siamo io, la mia compagna e, vabbè, abbiamo anche un bambino di 3 mesi. Ok, l'unica cosa che chiedo quando ci sono i bambini troppo piccoli è di non portare nulla da mangiare, latte vaccino piuttosto che omogenizzati, piuttosto che potrebbero creare un problema. Se invece... In che senso potrebbe creare un problema? Allora, in questo ristorante non esiste nulla di derivazione animale, questo ci permette di rivolgerci ad intolleranti ed allergici a latte, uova e prodotti ittici. Per poter fare questo non dobbiamo avere né in cucina né in sala nessun prodotto di questo tipo, per questo chiediamo di non introdurre niente né per i bambini quando si tratta di latte né per gli adulti quando si tratta di torte di compleanno. Questa è la spiegazione molto dilungata di quello che è la nostra tipologia di servizio. È un problema quindi se allattiamo il bambino, no, col biberon intendo dire? Col viverò. No, io veramente sono basito, forse non ho capito bene. Cioè, lei mi dice che non è possibile venire a cena e portarci indietro un biberon con latte. Non capisco perché lei stia facendo una polemica e mi stia trattando come un criminale. Ma io non la tratto come criminale, io semplicemente sono basito per quello che mi sta dicendo. Faccio un esempio: suo figlio vomita sulle posate. Non esiste la garanzia al 100%, neanche se io ho usato la massima cura in cucina, che questo soggetto non possa soffrire di un attacco. Beh, ma scusi, di... qua mi sta prendendo in giro lei. Cioè, no, oggigiorno lei mi dice che non è possibile sterilizzare la roba. Contento lei? No, guardi, io non è che io non so di cosa non sono contento, di essere partito con la migliore delle intenzioni, di averle spiegato per filo e per segno qual è il problema e di aver... Ma lei mi avrà pure spiegato, ma non capisco. Non intanto mi parla sempre sopra, lei dovrebbe andare da Bruno Vespa e non telefonare a me perché mi sta facendo incazzare. Intanto lei non ha voluto capire il problema. Ah, lei mi sta... lei non lo accetta. Ah, adesso lei si mette e continua a non accettarlo. Lei si incazza, allora... a parlare. E lei si incazza, allora cosa fa? Cosa fa se si incazza? E io non ho finito di parlare e le dico che lei è un gran maleducato. Ecco. E in quanto gran maleducato qua non ci deve proprio venire, ma non perché porta il latte, perché è un maleducato. Una persona educata ascolta le ragioni dell'altra parte e se non... Io non ho usato questi termini, è lei che dice che si incazza, è lei che ha usato questo termine, è lei che mi prende per il culo. Allora, caro David, la questione è molto semplice. Cioè, un bambino con il latte e il biberon non può entrare dentro un ristorante perché altrimenti contamina il resto? Sì, io sono d'accordo. Poi ti farò un esempio. Sono d'accordo. Peraltro, ho letto in questi giorni un libro straordinario proprio sul tema dei vegani. Ristorante vegano, Ristorante vegano. Ho letto un libro straordinario su questo tema. Si chiama I Fascio Vegani, Libertà di Cibo e di Pensiero. Vabbè, scritto da un tal Cruciani. Sei tu? Sì, sono io. Sì, tal Cruciani, la nave di Teseo. Vabbè, dai, cioè, adesso. Un libro non di fare una questo. Violenza. Non la faccio io. No, non la faccio la marchetta. No, perché l'ho letto con grande gusto, devo dire. Un libro di una violenza inaudita. Ma già quale nel violenza? Titolo I Fascio Vegani, bello, scritto bene. Non l'avrai allora... scritto tu, sicuramente avrai usato 50 ghostwriter pakistani no. che ti hanno scritto pagandoli allora... un euro come quelli che cuciono i palloni. Loro ti avranno scritto questo libro allora... comunque Fascio Vegani, Libertà di Cibo e di Pensiero. Dai. Teseo, quindi voglio dire, descrivi episodi violenti. Ora, questo che hai fatto è una violenza, perché oggettivamente io capisco questo ristoratore. Se tu vai ad esempio in un ristorante kasher ebraico, quello che deve essere certificato dal rabbino, e ovvio che se entri con un panino al maiale ti dicono: scusi, lei questo se lo mangia fuori perché altrimenti mi contamina il locale. Cioè, è evidente che sia così, no? Ragazzi, è una se follia, tu vai... dai. Sì, te lo spiego, ma sono serio, matti, non è una sono battuta. Matti, dai, oh, su, mamma mia, sono ma matti sono e matti. Basta, dai. Un bambino con latte non contamina nulla, dai. Ma se quello non è un ristorante grado... che garantisce agli avventori determinate regole, diciamo, perché tu gli devi bere, perché tu gli devi portare cose di origine animale. E ti ripeto, ma non porti sarebbe il biberon come... di un bambino, oh, ma di che parli? Non è il panino con la porchetta. Sarebbe come andare in un ristorante musulmano e portarsi la bottiglia di vino. No, quello ti dice qui non la può portare. È un bambino, oh, col biberon. E tu gli dici: guarda, mio figlio beve solo vino. E dice: cazzo, come beve solo vino? Tu. Sì. Se tu vai in un ristorante musulmano con il vino, è una stupidaggine, non ti dai. Ci fanno entrare perché lo contamini, ma è giusto che sia così. Non sei obbligato ad andare in un ristorante Federico vegano. Da Milano, no? Federico da Milano, vai. Federico da Milano. Vai, Federico. Buonasera. Dimmi cosa mi frega. Io grazie, sempre gentile Parenzo. Cos'è che ha detto? È sempre gentile Parenzo. No, ma cosa ha detto? Non l'ho sentito. Me lo frego perché di questo signore, frega, ma non importa. Ma no, ma gli voglio bene, lo rispetto. Vai Federico, dimmi. È tutta gente che insulta, la gente per bene non chiama. Ma chi te l'ha detto? Non devi insultare manco per niente magari. Vai Federico, dimmi. Allora, senti, io ieri ho sentito quell'intervento delirante di quella gentildonna che si è messa a urlare sul... Chiedo scusa, è passata una moto molto delicata. Vai, dimmi. Si è messa a urlare sul fatto che i cacciatori devono essere sottoposti alle visite mediche. Che sono voce più alta, voce più alta, Federico, avvicinati, se no non capisco, dai. Allora, comunque, i cacciatori sono sottoposti periodicamente a visite mediche. Sì, lo sappiamo, poi? Ecco, se io vengo fermato in stato di ebbrezza alla guida della macchina, mi gioco il porto d'armi. Quindi, allora, non è il concetto di stare a sentire cosa dice questa gente. Questa gente è in malafede. Ignorante di base, ma principalmente c'è un problema di buona fede. In passato mi è capitato di cercare di confrontarmi civilmente con loro. Tu sei un cacciatore, no? Mi sembra di capire. Assolutamente. Che cosa cacci? Che cosa vai a cacciare? Io caccio principalmente ungulati di selezione, cioè? Camosci, cervi, caprioli. Oh, finalmente i cervi. Come si ammazza un cervo? Un cervo si ammazza cercando innanzitutto la caccia si cerca di renderla etica, ovvero sì, però adesso non giriamoci intorno, come si ammazza un cervo? Con una fucilata messa dietro la spalla. Una fucilata messa dietro la spalla, si spara con la carabina. Sì, ma dove si punta, scusami? Dietro la spalla. Ah, dietro la spalla. Dietro la spalla. Che cosa provi quando ammazzi un cervo? Un'adrenalina indescrivibile, seguita da dovessi negarlo sarei giusto? Un mentitore, seguita da un senso di colpa e una punta di rimorso. Sì, quanto dura questo senso di colpa e rimorso? 5 minuti. Per cui è più forte l'adrenalina? Assolutamente sì. Cioè l'adrenalina poi vince su tutto. È come se ti sentissi un po' in colpa per aver ammazzato una cosa che ti piace, perché tu ami quel cervo, giusto? Assolutamente. Ami io quel li vado cervo. A contare, li vado a vedere. Cioè la caccia dura 2 mesi all'anno, ma uno esce a vedere animali tutto l'anno. Benissimo, tu ami quel cervo, l'anno. lo ammazzi e che cosa succede? Lo ami lo stesso, piangi, che cosa fai quando no, sei lì col cadavere fumante? Col cadavere ci sono dei rituali che servono a può darsi che siano considerate così, però ipocrite. Dimmi. Ma ci sono dei rituali che sono fatti per rendere onore all'animale. Noi abbiamo prelevato un animale di dimensioni considerevoli che è un bellissimo animale che però rientra in dei piani di gestione. E allora? Il prelievo è volto al corretto equilibrio della fauna. Quindi il prelievo viene fatto per gestire il cervo. Sì, però lascia perdere le cose tecniche. Che cosa provi in quel momento lì? Qual è Allora, ti ho spiegato. Adrenalina prima dello sparo, adrenalina piccolo senso di colpa. Quando arrivo sull'animale. Ok, ciao caro Federico, ciao. Grazie, ciao. Saluti. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta La Zanzara. Ah, andiamo avanti. E andiamo avanti con Danilo Frosinone, se non sbaglio, no? Vai Danilo, vai. Assolutamente, sì, buonasera Cruciani, buonasera Valenzo. Dimmi. Volevo soltanto dire che io credo che il miglior spot per le politiche contro la questione dell'immigrazione indiscriminata, io credo che sia rappresentato dalla posizione che assume ogni volta il signor Parenzo. Laddove, cioè tu stai dicendo senso, Parenzo, sì, per esempio proponendo il biglietto gratis per i richiedenti asilo o richiedenti, è una legalizzazione di uno status, vabbè, d'accordo, l'hai già detto, i cercatori di felicità, no, ma non è una provocazione, aspetta, sono serissimo. sta facendo no, tu dici un grandissimo spot a quelli che non vogliono gli immigrati in mezzo, che vogliono, capiscono. Più lui parla e fa delle proposte così al limite del paradosso, no, che non c'è nessun paradosso, non c'è nessun paradosso, fallo finire, no, scusi direttore. Scusi direttore. Io non sono direttore assolutamente. Direttore di questo italiano. No, direttore, vabbè, direttore allora di questo momento. E allora dicevo che ogni volta che lui parla, secondo me la gente si incazza ulteriormente. E un esempio concreto è rappresentato da quello che è successo ieri con la signora Di Lodi, dove si è cercato di far passare la signora per razzista, ma la signora si è incazzata non perché quello fosse di colore, ma perché vengono quello in Italia persone che comunque non producono nulla, non incrementano assolutamente l'economia e poi si permettono pure di non osservare le regole italiane. Questo è quello che ha fatto incazzare la signora. Ho capito. Non c'entra niente il fatto del colore della pelle, verde, bianco, giallo, azzurro. Io credo che più Parenzo parla e più la gente si incazza. Ciao amico mio. Con la gente non ci parla. Ciao Dani, ciao. Ciao, grazie. E adesso, caro David, nuova rubrica. Via. Oh mamma. L'indagatore dell'incubo Cruciani e il super scettico Parenzo, eccolo qui, presentano fenomeni paranormali. Ma che fenomeni deliranti. In questa puntata, ma ricordate Andrea Giotti, non te lo ricordi tu David, 51 anni, insegnante di matematica, una laurea in ingegneria, dice che da 7 anni gli americani controllano a distanza il suo cervello. Ma cosa dite? Ma l'abbiamo già sentito. Ma ho capito, ma non siamo una follia pura, ma chiama la neuro, non la rubrica. Un piccolo ripasso, una porcheria, dai, un matto. I satelliti? Sì. I proprietari dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana? Sì. Che interferiscono col sistema nervoso delle persone attraverso flussi di particelle fuori del modello standard? Sì. Probabilmente maialoni. sparati da cannoni orbitali sul sistema nervoso della vittima tedesca. I maioroni nel sistema cerebrale della vittima. I maioroni. Senti di nuovo. Si tratta di interferenze sul sistema nervoso delle persone, sì, messaggi subliminali e cose di questo genere. Ancora. Ma che ancora? Un colpo di sole quello lì, ma che ancora? Aspetta. Io ho visto un dispositivo sviluppato a partire da questa tecnologia proibita. E dunque, da allora sono il mirino dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale. Ma perché non dorme lei? Non dorme perché è uno spostato. Non dormo perché mi spaiono maioroni da un cannone orbitale sul sistema nervoso. Cos'è che spaiono? Scusa, a un certo numero. No, di ma io le consiglio. Le scelte dall'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana. Io direi di risentirlo, caro David. Ma anche no. Seconda puntata con il mitologico Andrea Giotti. Pronto? Sì, Giotti, buonasera. Qui la Zanzara, come sta? Buonasera. Come andiamo? Come stiamo? Come sempre, ho dormito molto poco questi giorni. Ecco, ma mi spieghi un attimo, come mai lei dorme poco? Cioè, ancora non l'ho capita questa cosa, me la spieghi bene? Beh, in sostanza, sono conseguenze di una tortura neurologica che ho subito attraverso nuovi strumenti, nuove tecnologie americane. Beh, ecco, ma in che cosa consistono queste tecniche, scusi? Allora, per essere breve, esistono nuove tecnologie per interfacciare il sistema nervoso umano da lontano, in lettura e in scrittura. In lettura significa per misurare le correnti che ci passano sopra, decifrarle e di conseguenza farsi un'idea di che cosa una persona sta pensando. Cioè, se queste tecniche riescono a vedere nel suo cervello? Queste tecniche riescono a vedere in remoto alcuni aspetti dell'attività cerebrale. Tanto che gli va dietro, vabbè. No, ma scusi un attimo, ho capito, ma perché dovrebbero essere interessati a guardare che cosa c'è nel suo cervello o in quello di altri? Appunto, tra l'altro. Beh, diciamo, nel mio in particolare l'interesse può essere relativo. È un sistema che viene utilizzato in maniera sistematica, diciamo. Sì. Per verificare e tenere sotto controllo persone che possono costituire un problema in quanto a conoscenza dell'esistenza di questa tecnologia. E lei come se n'è accorto di avere questo controllo nel suo cervello? Come se n'è accorto, certo. I fenomeni iniziano attraverso, assomigliano allucinazioni uditive di natura simile a quelle indotte dalla schizofrenia paranoica. Ecco, siamo al punto. No, aspetta. Allora, cioè sono allucinazioni tipiche di una schizofrenia, uguali? No, non sono uguali perché sono coerenti tra loro e diciamo indicano e possono essere valutate dal soggetto in maniera lucida. Chi è schizofrenico paranoide, non è in grado. Cioè lei si rende conto di quello che avviene nel suo cervello? Sì, di essere fuori di testa, dai, se ne rende conto per ora. O no? No, non sono fuori di testa, signore. In realtà, quello che cerco di discutere di fronte al pubblico, anche di fronte a voi, è la possibilità dell'utilizzo sui cittadini italiani e del mondo di nuove tecnologie d'arma. E questo è l'aspetto per Ma che cosa sono questi maioroni di cui lei ha parlato? Maioroni, non voglio sentire parlare di maioroni, te lo dico, va bene tutto, ma i maioroni molto in breve sono particelle ipotetiche. Ipotetiche significa la cui esistenza deve essere ancora verificata. Tutti ipotesi, zucchero. Come zucchero, possono uguale. Essere utilizzate come armi. Ma scusi, ma lei è soggetto a questi maioroni? È colpito da questi maioroni, sì o no? Allora, io sì, in effetti sono spesso colpito da questi effetti neurologici in maniera diretta o dalle loro conseguenze. I satelliti che sono nel suo cervello riescono a sentire cosa sto per dirle? Non si parla di precognizione né di paranormale in generale. No, quindi non riescono a intuire che io tra poco la mando a fare in culo. Non riescono a intuire. Ma che c'entra? Non essere volgare, dai. Signore, a ognuno il proprio stile, voglio dire. Faccia pure se vuole. No, però scusi Giotti, allora, la cosa è molto semplice. Ecco, lei come vive? Vive praticamente in un incubo. Beh, la vita chiaramente non è molto facile sotto l'occhio di questo satellite o di questi satelliti. Questo è evidente. Ma perché questi qua farebbero questi controlli, diciamo, sui cervelli delle persone? Come fanno ad agire? Chi c'è di mezzo? Cioè, chi c'è dietro questo complotto? Il soggetto che c'è dietro è l'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana. E lo scopo è quello di imporre un dominio, un controllo politico sull'umanità in generale. Un dominio sull'umanità. Proviamo a stare calmi. Mi scusi, domani potrebbe toccare anche a voi della Zanzara. Non abbiamo altri problemi. Sì, no, ma io sento un ronzio in testa. C'ho una vocina che mi dice: mandalo a fanculo, mandalo. Però è un ronzio solo, capisci? Meglio Roni, mandalo a fare in quel meglioroni, meco io, capito? No, i meglioroni. C'è qualcuno che le dà degli ordini? C'è qualcuno che le dà degli ordini? Sì. Gli ordini sì, me li danno, ma io disobbedisco, mi ha sistemato. Che ordini le danno, scusi? Ecco, sentiamo. Ad esempio, questo sono ordini aggressivi, oppure sono ordini di diffidenza nei confronti di altre persone. Cioè, io che le dicono? Che le dicono? Aggredisci questo, picchia questo, che cosa le dicono? Sì, anche cose di questo genere. In questo momento non le sto sentendo, però se le stessi sentendo, una buona proposta potrebbe essere riappendere al telefono, ma io non lo farò, sono invece interessato a parlare con voi. Il suo psichiatra? No, lo psichiatra che mi ha valutato dice che la mia personalità è integra, equilibrata, e che queste voci non sono spiegabili in termini di psichiatria. Scusi, e allora questi ordini quali sarebbero? Mi dica un ordine, se no non capisco. L'ordine uccida quella persona, che ne so, ammazzi quell'altro. Sì, cose di questo genere, ha detto bene. Ma perché gli americani dovrebbero essere interessati a controllare i cervelli? Cioè, non si hanno in particolare quello suo! Dietro che ci sono, solo americani oppure altri? Ma allora, questo è stato oggetto di una discussione, chiaramente. È probabile che insieme agli americani ci siano alcuni dei loro alleati strategici, come può essere per esempio lo Stato di Israele. Controllo sulla mente delle persone. Va bene. Quando chiude il circo, lo spettacolo a che ora finisce? Lei ha figli? No, non sono sposato, non ho figli. Appunto. Non ha relazioni stabili, cioè non ha delle cose che le danno della stabilità, una donna, una compagna con cui condividere questa malattia psichica molto grave. Molti anni, ecco, poi se n'è andata anche lei. Ma non per colpa dei meglioroni se n'è andata. Che vorrei dire, non per colpa degli americani, se n'è andata perché la giudica un pazzo, evidentemente, no? Perché se n'è andata? È di una malattia, e poi era una persona che mi apprezzavano moltissimo, dico la verità, e continuo a ricordarmi con piacere a giudicare. Perché non ha più una relazione stabile? Perché è impossibile in questa situazione, dice lei. Beh, in questa situazione è ben difficile, evidentemente. Vivere con voci in testa non è facile, anche se uno riesce a mantenere l'uscita. Le voci in testa dei satelliti americani. Dove stanno questi satelliti, professor? Questo è oggetto di ricerca da parte anche mia, ma anche da parte di altri soggetti. Ma come si fa a fare una ricerca? Me lo posso? Non voglio essere aggressivo, mi viene da piangere se penso questa roba. Per esempio, le faccio come si fa. Sì. Si rivolge a qualcuno che abbia capacità scientifiche e politiche per poterla fare. Ad esempio all'FSB, i servizi segreti della Federazione Russa. Ah, stanno indagando su questi satelliti di controllo mentale? Esattamente. E che dicono i russi? Ma che ne sa lui? A seguito della mia segnalazione. Adesso. I russi sono stati allertati? Basta. Cosa vuol dire? Vuol dire lei ha chiamato Putin? Che ha fatto? Dice pronto? Meglioroni, sono il professore. Sono andato più volte a Mosca, posso documentarlo, ovviamente. Sarà andato chiunque può andare a Mosca, anch'io posso documentarlo. Ho preso un biglietto, sono andato a Mosca, ovvio. Sono relazionato con i vertici dei servizi russi. Lui? E che dicono? Che dicono? Che hanno detto i vertici dei servizi russi? A me hanno detto abbastanza poco, però mi hanno riscontrato in sostanza la bontà della mia collaborazione. Ma l'hanno accolta con dei medici in camice bianco o no? Quando lei si è presentato alle porte del Cremlino? Con quello che si chiama un analista dei servizi, non so se sa che cos'è. Sì, d'accordo, perfetto, però alla fine che hanno scoperto un cazzo? No, hanno scoperto in buona sostanza che probabilmente ho ragione, però questa cosa... Ma non è uscita fuori questa cosa? Cioè non è che i russi dicono ci sono i satelliti americani che controllano a distanza i cervelli delle persone? Non è uscita fuori questa cosa? Ufficialmente, ma stanno facendo indagine su questo argomento e prima o poi l'argomento finirà su... Ma lo scopo finale, per concludere, sarebbe quale lo scopo finale? Fottere gli altri? Qual è lo scopo finale? Dominare il mondo? Fottere gli altri? Carpirne i pensieri? È uno scopo di controllo politico, lo scopo è il controllo politico dell'umanità. Quello su cui non sono d'accordo è un controllo capillare delle coscienze. Questo capito, il controllo capillare delle coscienze. Da quanto tempo lei non prende quella medicina che le hanno prescritto? Da quanti... A me non hanno mai prescritto medicina. Questo è il punto. Sono stato in visita da due ospedali, altrove. Nessuno si è mai sentito di prescrivere alcun tipo questo di è il punto. Questo è il professore, punto. Professore, grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Allora, Davide, mi hanno detto che sei uscito fuori dallo studio, mi hanno avvertito da Roma. Ma dove cavolo sei andato? Ogni volta. Il telefono oggi è il 5778, sono andato in sinagoga perché oggi è il capodanno ebraico. Quindi grazie e fatemi pure gli auguri di buon anno. Oggi è il 5778 e mi sto recando. Ma ho capito, ma scusa, mi avevi detto che saresti rimasto tutto il tempo, invece no, all'improvviso Sanato sei andato via. Va, dai, in ebraico, gli insegniamo delle cose anche. Sanato va, vuol dire per un anno buono si mangia il miele, si mangiano dei cibi molto dolci, perché questo che deve schifo. Essere un anno. Come che schifo? Metti meglio il telefono, però. Aspetta, ti voglio far ascoltare una cosa. Crozza che imita Feltri. Crozza che imita Feltri. Aspetta, in preparazione del nuovo programma. Crozza imita Feltri. Ma il capodanno ebraico oggi. Aspetta, secondo me lo fai meglio tu, lo sai. Aspetta, senti Crozza intanto, senti. Scusi, Feltri, come mai non si è ancora espresso sulla vicenda dei carabinieri e delle studentesse americane? No, non mi sono espresso perché non ho niente da dire, sono cose che succedono. Beh, gravi, ma sono americane, gravi. Vanno in discoteca, vedono arrivare la divisa dei carabinieri. E quindi? Cioè, chi eccita i carabinieri? Ma no. Quindi secondo lei non è stupro? Ma questo lo stabilirà la magistratura, ma che cazzo me ne frega se è stupro. Capito, stupro è quando un senegalese ti sdraia sulla panchina ai giardinetti. Ma perché? Ma no, cosa c'entra? Portano le malattie e vivono nella merda. Come titolerebbe libero su questa notizia? Ma io non posso titolare, non sono mica il direttore. Sì, però influirà un minimo sui titoli. Come titolerebbe se... Ma non lo so, se dovessi farlo, un titolo. Cercherei un titolo fattuale. Fattuale? Che rispecchia la realtà di far capire cos'è successo. Ecco, ma, non lo so. Ma tipo così? Ma non lo so, ovviamente alle americane piace il cane. Ma è un titolo fattuale. Ma non è fattuale, è un titolo fattuale. Ma poi c'è la magistratura a stabilire quanto è fattuale e quanto gli piace il cazzo alle americane. Che la prego, me ne frega. Ma io sto per morire, io ho ancora 4-5 anni di vita. Non glielo auguriamo, anzi, no. Ma nemmeno io, ma muori tu, ma che cazzo vuoi da me? Allora, a parte Davide che è interamente copiato da noi, quasi interamente copiato. Non me frega niente di niente. Proprio. Avvicina di più la bocca al telefonino, vai! Non me frega niente. Sto a Bergamo, mi interessa. Meglio Parenzo, ragazzi, meglio Parenzo. Comunque abbiamo chi c'è? Franco da... Chi è Franco? Franco, da dove chiami? Da Napoli. Vai Franco, dimmi, vai. Buonasera Don Peppino. Buonasera. No, Don Peppino no, perché non appartengo. Un boss, sei un boss. No, non sono radio, un boss. No. Sì, vabbè, d'accordo. Lo paga lei il titolo della metropolitana? Della radio. Proprio lei cercavo. Ecco. Lei lo un paga simpaticone. Lei un simpaticone, signor Parenzo. Io ho chiamato per fare una morale a Cruciani perché l'ha fatto diventare anche lei un maledetto antinapoletano. Quindi una lezione, un pregio. Vabbè, dai Franco, di che vuoi parlare? Dai, forza. Ecco, proprio del razzismo di Cruciani, di lei, anche di lei, perché lei è già noto, è antinapoletano per eccellenza. E il signor Parenzo veramente adesso mi ha fatto veramente scendere il cuore nei calcini. No, io non sono antinapoletano. Adesso non se ne esca con questa scusa, non ce l'ha con tutti, ce l'ha con tutti. Assolutamente, mai stato antinapoletano. Una scuola di antinapoletano. Ma non dire stronzate, dai. Non dire stronzate. Così ho detto, sei un razzista, e un fascista e antinapoletano. Ma denunciami, tu sei un pazzo totale. Ma tu non accetti le critiche, non accetti le critiche, ma smettila. E un giorno sì e l'altro pure parlare sempre male napoletano, il Movimento 5 Stelle. Basta. Per fortuna, ci scusi se c'è la libertà di critica, ci scusi se esiste la libertà di critica. Critica. Ci siete scusi, ridicoli ma, siete diventati tutti e due, siete due comici. Sì. Voi siete due comici. Magari, il vostro magari. È uno show. Magari, uno show. Volete fare anche i professorini del sorreggio? Ma quale professorini? Ma falla figo. Lo show. Però lo show è interessante. Ma de che? Lo show è interessante. Lo show. Che parlate sempre anche. Ci sono della Lega a proposito, Cruciani. Ma non mi dici niente della Lega. Non c'è nulla da dire sulla Lega. Ma l'abbiamo detto nei giorni scorsi. Ma cosa dici? Riduci tutto a nulla. Au revoir. Au revoir. Lavatevi la bocca. Ma che c'entra adesso 5 Stelle con Napoli? Che c'entra? Anche con 5 Stelle fanno una politica proprio. Facciamo una politica. Lo show, però è interessante lo show. Vattene a casa, va. Ma che sei laureato? No, io sì, lui no, ma non ce ne frega niente. A casa. Quello sicuro. Dalla Confindus si dovrebbero vergognare di darti ancora la morale. Lo show. È una vergogna d'Italia. Lo show. Sei divertito a correggere anche la signorina che ha sbagliato la parola, i professoroni. Ascolti però, Mi diverto, perché veramente non show. L'ho definito uno show, figurati. No, ma show hai detto. Voi fate divertire. Ciao, amico mio, ciao. Razzisti, siete razzisti, capito? Allora, a proposito di vitalizi, forse anche di prostituzione, caro David. Chiamerei un deputato, Mario Sberna, quello che va in Parlamento praticamente a piedi scalzi, un grande moralista lo chiamerei io, dell'ex sciolta civica, Mario Sberna. Sì, ma io devo andare in sinagoga. Oggi aspetta, aspetta lì, aspetta lì, ho capito, aspetta lì un attimo. Sì, pronto? Caro Sberna, auguri, come sta? Sto bene, grazie. Oh, Cruciani. Come andiamo, caro Sberna? Auguri per il vitalizio. Grande svolta, o no? No, sì, no, grande svolta no, perché proprio a me non è che cambi molto. Come cambia molto? Sì, vabbè, insomma, però voglio dire, non è che... Mica si fa ricco, eh? Sì, no, insomma, non è la il soldo che fa la felicità, come si dice. Ma giusto? D'accordo, per carità, però lei si è assicurato, quando avrà 65 anni, un migliaio di euro. Lei pensa che sia giusto? Sono 850, se vogliamo proprio essere precisi, né? Lei pensa che sia giusto? Il fatto di aver versato 950 euro al mese, ma questo vale per tutti, eh? Appunto. Vale anche per i grillini, insomma, per intenderci, perché bastava che non li versassero. Ascolti, Cruciani, no, ma soltanto fare due conti, Io qui in parte a me mia moglie, sì, che è operatrice socio-assistenziale, prende 850 euro al mese. Sì. Avrà una pensione all'incirca di 850 euro al mese, in 43 anni di lavoro che farà mia moglie, Eagle, avrà versato 40.000 euro. Il parlamentare ne ha versato 50.000. Mia per moglie 4 anni, 60. Per 4 anni, però, per 4 anni, amico mio. Sì, ma no, ma ascolta, siamo col contributivo, non ti ma nessuno, in giro, va in nessuno va in pensione dopo 4 anni e 6 mesi, ma prende una pensione, qualsiasi lavoro, non ti danno nulla. Non ti danno nulla. Nessuno versa 50.000 euro, però, no? No, sono sempre soldi nostri, però, questi qua. L'avete deciso voi l'ammontare dei soldi che vengono? Sì, ma ho capito, ma anche del presidente dell'INPS sono soldi nostri, ma cosa c'entra? Qualunque dipendente pubblico ha i soldi del pubblico. Però, mia moglie è operatrice per il comune, ha i soldi del comune. Ho capito, ma non c'è, nessuno dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno, non c'è nessuno che ha diritto a una pensione. Questo è il punto. Non c'è nemmeno nessuno che paga 50.000 euro per avere una pensione dopo 4 anni. Ma ho capito, ma è un privilegio. Giorno, è un privilegio questo qua. Ma è un privilegio. Non è un privilegio. Io non sono d'accordo. Per lei non è un privilegio questa roba qua. Lei non si sente un privilegiato quando prenderà questi soldi. Ma io mi sento un privilegiato per aver avuto l'onore di fare il parlamentare. Ma per questa pensione, lei non si sente un privilegiato? Ma perché pensione è 600 euro, dai? Ma lasciamo stare Parenzo l'importo, perché rispetto a prima certo è diminuito ed è bene che sia così. Qualunque lavoratore versa il 10% del suo stipendio al fondo della pensione. Ma non c'è nessuno che va dopo 4 anni ha diritto alla pensione? Dopo 4 anni e 6 mesi un giorno, su questo io sono d'accordo con te. Ho capito, ma quello è però. Però non c'è nessuno che fa parlamentare per 43 anni, dai, Cruciani, per piacere, questi soldi qua è un tipo di lavoro che tu fai per un periodo breve. Però scusami, un'ultima cosa: sai che a Firenze hanno deciso di multare il sindaco Nardella e i clienti delle prostitute e fino a 3 mesi di galera? Che bravi, vedi? Come vedi bravi? Che qualcosa è servito qualcosa è servito la mia proposta. Fino a 3 mesi, Sberna, fino a 3 mesi di galera per chi va a prostitute. Fanno bene, secondo te, a multare e a punire i clienti delle prostitute? No, non sono prostitute, sono donne. Prostitute? Spesso costretta ad essere. Ma questo non è il cliente, non è il cliente che se ne deve occupare. In questo sbaglio. Il cliente violenta una persona. La violenta. Ma che violenta? Ma c'è un douto des. È uno stupro agevolato, è minimizzato solo dal fatto che tira fuori 50 euro. Per cui stupro agevolato. Stupro agevolato. Gli stupri sono altri. Gli stupri sono quelli di questi giorni. Non è uno che va a prostitute. Stai paragonando quelli che vanno a prostitute agli stupratori. Insomma, il desiderio di fondo, guarda che è uguale. Cioè, tu sei una cosa che io compro, che io prendo, che io strappo perché c'ho voglia. E io voglio voglia di essere pagata questa per cosa, questa cosa si chiama donna. È una donna, sì, benissimo. Spesso che prende una mano di botte se non fa quella cosa lì, è una gran mano di botte. Questo è un altro discorso. No, ma non è un altro discorso. Ciao Sberna, ciao da solo. Grazie mille a voi. Ciao caro. È incredibile, ragazzi. Sberna che dice che ha fatto il paragone tra gli stupratori e quelli che vanno a puttane. Parenzo d'accordo. Ma no, certo, ma dai, fare una cosa è sempre una violenza. Ma è vergogna, dai, Franco. Di una donna, Franco, vai. Pagando. Dimmi. Volevo parlare di pelo femminile con il benestare di Parenzo. Vai, dimmi. Un ricordo di infanzia. Primi anni 60. prima vacanza al mare, in una colonia di quelle lasciateci dal ventennio fascista, primo giorno di spiaggia, noi ragazzini tutti in costume e anche l'accompagnatrice in costume. E allora? Il mio sguardo si focalizza sull'inguine di una di queste. Dove sporgevano non soltanto le boscose sopracciglia. Ma sei con l'auricolare, scusami, auricolare viva voce, amico mio. No, dai. No, non ce l'ho. E dai, ma è possibile mai che si sente questo rimbombo pazzesco? Ma che cazzo di telefoni avete? Vai, forza, prosegui. Ma hai seguito? Dai, sì, dai. Allora, il mio sguardo si focalizza sull'inguine di una di queste signorine. Dove spuntavano non soltanto le boscose sopracciglia dell'onorevole Piano. Ma l'intera capigliatura. Cioè, mi stai dicendo che tu sei rimasto colpito da quella roba lì? E sei un amante. L'onorevole Piano, ma... da lì era uscito e da lì il suo capoccione voleva rientrare. Vabbè, è una cazzata, dai, su. Ciao. Ciao. A proposito di femmine. Caro David, io farei una telefonata in Svizzera, un'amica mia. Guarda, non dire niente. No, io mi chiedo scusa se mi abbandono. Telefonata ma in Svizzera, fermo lì. Pronto? Ionella? Sì, ciao. Ciao, sono Cruciani, Radio 24, come stai? Ciao, bene. Allora, senti, caro Parenzo, ti voglio presentare Ionella Dantes. O chi Dantes? È una scrittrice? Come si dice, Dantes o Dantes? Dantes. No, non è una scrittrice. Ma ha vinto il premio Campiello. No, ma non ha vinto nessun premio Campiello. Che c'entra il premio Campiello? Cioè, è una signora. Un'attrice, ha vinto il Festival di Cannes. È un'attrice, sì, è vero, è anche un'attrice. Quindi era alla mostra, è alla mostra del cinema di Venezia. No, quindi si trova in questo momento in un bordello svizzero che si chiama Maxim. Che si in chiama un Maxim. Bordello. Esatto, sì, in un posto, in un luogo che è un bordello, quello che noi chiamiamo bordelli in Svizzera, che si chiama Maxim. Cara Ionella, quanti anni hai tu? Io ne ho 37. 37 anni. Nazionalità romena? Sì, sono romena, origine bulgara e tartara. Se posso essere sincero, senza mancarti rispetto a questa signora, ma questa prostituta a questo punto l'ha detto così. Ma benissimo. Tanto prostituta non è una parola brutta, è con lei che cammina per la strada. Posso dire semplicemente che ho un interesse pari a zero. Ma perché? Perché? Non ho capito. Ma questa signora. Ma guarda, se te lo prendo io che te lo spompino un po', vuoi vedere che ti cambio idea, eh? No, scusi signora. Scusi, io. Mi dica, la signora bene. Allora io l'aspetto a Maxim Club a Chiasso, l'aspetto. Guardi, signora, voglio giocare con lei a carte, a scopa. Ma il signore che parla dall'altra parte, che sembra più lontano anche da te. Sì. Sì. Ma tromba ogni tanto, giusto? Beh, per sapere quello ma come si permette? Ma come si permette? Perché così magari vengo, le do qualche lezione di tromba. ma non ho bisogno delle sue lezioni. Ma ti vergogni? Ma che me ne frega a me? Ma io non mi vergogno, perché è talmente bello scopare, guarda, che non mi vergogno. Ho capito, ma perché la deve dire alla radio? Io vengo anche in radio, se vuole. No, ma questo è l'altro discorso. Ma non vengo, non me ne frega niente a me, rimanga dov'è, rimanga lì Svizzera. Ma io rimango qua, io lo aspetto, guarda, io la voglio vedere, devo fare un caffè io. Ma non voglio venire, non mi interessa, non frequento. Allora, però io dico una cosa, perché questa ragazza qua fa due mestieri insieme. Brava. Cioè, fa una grande lavoratrice, fai la pornostar e fai anche la prostituta, cioè fai la puttana e la pornostar. Certo. Sì, brava, mi piace la parola puttana, mi piace. Un altro lavoro, sì. Ma guarda, ho fatto tanti lavori e mi volevano sempre scopare, quindi a questo punto scopo, uso il mio corpo, ci guadagna, che cazzo me ne frega a me? Beh, devo dire che è come logica. No, ho capito, però magari si potrebbe trovare il modo per, che so, contattare un centro per l'impiego. Guarda, magari io voglio col signorino lì, che proprio mi viene a Chiasso e me lo voglio spompinare, voglio vedere se dice ancora le stesse cose. Ma io non voglio niente, dai. Mi fa orrore quello che fa, orrore a me. Scusami, Ionella, io voglio chiederti una cosa, ma pensi di smettere prima o poi, oppure? No, smetterò di fare questo lavoro, certo, è giusto. Ma quanto guadagni? Ma abbastanza, non mi tra lamento. Tutto, diciamo la verità, tra tutto, quanto all'anno, quanto guadagni in media? Con i film non ho guadagnato niente. E con la... Le ho fatte, ma non ho guadagnato, che sai che ma cosa? Ti credo, mica è un'attrice, scusa, ma che discorsi fai? Ma è ovvio. Sono una porno star, non un'attrice. Lei semplicemente è una prostituta, va benissimo, però non è che adesso possiamo trasformarla in un'attrice. Guarda, tutte dai. Le donne, tesoro, tutte le donne scopano, e magari non lo fanno vedere, ma tutte scopiamo, che vuol dire? Tutte siamo prostitute. Scusami un attimo, ma la maggior parte dei clienti che frequenti che sono italiani? Sì, sono italiani. Tutti italiani, certo che parezza siamo veramente dei maiali, diciamoci la verità. Siete bravi, devo dire la verità. Bravi a che fare? A scopare. I tuoi clienti che sono? Gente sposata, gente... Sì, anche single, sposata o appena divorziati che vengono a tirarsi un posto di morale. Capito, David? Sì. Faccio anche da psicologa. In che senso da psicologa? Nel senso che riesco a tirare sulle persone che stanno un pochino male. Cioè tu sei praticamente un assistente da questo punto di vista. Cioè... devo dire la verità, sì, è vero. Guarda, sono anche modesta, è vero. Io ho aiutato molte persone. Cioè salvi anche le famiglie? Salvi delle famiglie? Ho salvato anche famiglie, sì, sì. No, sì, voglio sì, dire... Anche il matrimonio. Hai salvato dei matrimoni, diciamo, no? Sì, ho salvato dei matrimoni, sì. Cioè loro venivano a scopare da te? Perché non hanno più fantasie sessuali. Non avendo fantasie sessuali un po' si smoscia la cosa. E dunque che hai fatto? Sei andata a letto con marito e moglie? Anche. Se uno volesse affittarti, una coppia volesse affittarti, quanto paga? Ma come affittarla? Che porcheria è? Una coppia vuole affittare. Ma non c'è da ridere, è una porcheria industrializzata. Ma è questa la realtà, succede nella realtà. È questa la realtà dei fatti, scusi. Una coppia ti vuole affittare per una notte, quanto paga? Qual è la tariffa? La tariffa per una notte, lo devo proprio dire? Dicelo. Dai, 1000. 1000? Cioè una coppia ti vuole affittare per una notte, 1000 euro, sì, capito? 1000. Capito, sì. David? Che mondo state descrivendo? Un mondo ma io non voglio un paio di scarpe, io voglio i soldi. Questa roba è una porcheria, è una possiamo dirlo che è una porcheria affittare una coppia, affitti una donna per fare del sesso. Ma lo pensavo anch'io una volta così, invece. Ma quando hai iniziato a fare la prostituta? 2005. L'hai fatto soprattutto perché ti piace il sesso? Hai dei padroni? A me piace il sesso. Hai un magnaccia? No, basta, solo questo mi manca. Cioè ti gestisci da sola? Mi gestisco da sola, sì. Capito, David? Qui non esistono padroni, non esistono. No, non esiste sono contro l'immaniaccia. Ma invitiamo qualche imprenditore che ha inventato delle start-up, qualche giovane. Ma lei è una... Lo invitiamo pure a uno di questi, perché tanto vengono tutti a scopare qua. Ma al Martin certo. Quanti film hai fatto, Ionella? Una cinquantina. 50 film? Un titolo? Questi qua non ci se ne ricorda manco uno, vorrà dire qualcosa, no? Ma lei vada su Google, digita Ionella Dantes e veda lì i miei film. Tutti quelli che mi ascoltano, io gli mando un dolcissimo bacio, anche alle donne. Vabbè. Quello che si eccitano con il loro uomo. Vabbè, ciao Ionella, ciao. Mamma mia, come ti ha messo in riga questa prostituta e attrice porno? Come ti ha messo in riga, caro Davide? Ma quale riga? Ma non vabbè, ciao, ti saluto ragazzi, a tardi. Ciao.